racconta la storia delle donne svizzere Sì. che hanno dovuto lottare per ottenere il diritto di votare Sì. fino a 1971. La Svizzera era l'ultimo paese democratico in Europa dove le donne hanno ottenuto il diritto di votare. Il film racconta in maniera leggera, però anche triste, comica, alle volte drammatica, come queste donne, quanto era duro per queste donne di ricevere il diritto di votare. Ok. Senti, come è nata l'idea del film? Tematica della legalità delle donne e uomini è tristemente molto attuale. E l'altro è che io sono una donna o una mamma o dei nonni, anche una nonna italiana, e ho sempre avuto il senso che loro non sono totalmente felici con il ruolo che hanno nella società. Allora, le tematiche femministe e la tematica della legalità delle donne in società era sempre molto importante per me. Sì. E poi anche su questa storia non si impara niente a scuola in Svizzera. Lo sappiamo che le donne hanno ottenuto il diritto molto tardi, però non si insegna in scuola che è la storia. E io volevo ricordare la gente. Come era duro per le donne di ottenere questo diritto democratico. Petra, che tipo di ricerca hai fatto per la costruzione del film? Io ho parlato con tanta gente, ho parlato con delle donne che hanno vissuto in questo tempo, ho letto molti libri, ho parlato con la mia mamma. E poco a poco ho trovato tutti i personaggi che si vede nel film sono un'ispirazione della realtà. Non è una storia, diciamo, documentaria, è fizionale, però tutto che si vede nel film l'ispirazione l'ho ottenuto della realtà. Ok. Scusa il mio italiano, eh. No, no, va benissimo. Senti Petra, che mobilitazione hanno fatto le donne e che prezzo hanno pagato per questa mobilitazione per ottenere il voto? Loro hanno lottato per 100 anni, hanno cercato di ottenere questo diritto, non hanno aspettato a casa finché gli uomini, la Svizzera è una democrazia diretta, Sì. allora i uomini dovevano votare su questo fatto. E in no, 1959 era la prima volta e hanno detto no alle donne e poi durava fino al 71 finché potevano votare di nuovo. E poi i uomini hanno detto di sì perché anche i politici lo hanno supportato. Ok. Il prezzo che non potevano votare, non hanno pagato un prezzo per poter votare, però hanno pagato un grande, grande prezzo per non poter votare perché i diritti, le leggi, le donne non potevano partecipare nella creazione delle leggi. Sì. Allora anche la legge matrimoniale che si vede nel film, che l'uomo può dire alla donna che lei non può andare a lavorare, che le donne non potevano avere un bank account, Conto bancario. un conto bancale non potevano Sì. avere. Tutte queste cose esistevano in 71 in Svizzera e non poteva essere cambiato fino il 1988 perché poi hanno cambiato la legge. Ok. Senti, perché questo richiamo alla religione nel titolo contro l'ordine divino? Era un argomento nel 71, tutti gli argomenti che si sente nel film Sì. sono argomenti originali di 71, loro hanno detto, la gente e anche delle donne che erano contro il voto per le donne, hanno detto che le donne nella politica sono contro l'ordine divino. Loro hanno detto che Dio ha fatto un ordine nel mondo, che le donne stiano a casa e gli uomini fanno tutto questo che è esteriore. Allora hanno usato la religione per mantenere le donne in una situazione oppressa. Questa era una linea di argomentazione. L'altra argomentazione era biologica, che hanno detto le donne hanno il cervello più piccolo, okay. non possono pensare come gli uomini, non sono fatto per la politica. Tutti questi argomenti hanno ancora fatto nel 71. Okay. Ecco, dal 1971 ad oggi, qual è oggi il peso delle donne nella politica svizzera? Abbiamo la stessa situazione come in molti paesi, che le cose hanno cambiato, però non esiste la egalità. Non ci sono abbastanza donne nella politica, non ci sono abbastanza donne nelle posizioni di manager, e c'è anche una inegalità del pagamento. Le donne in Svizzera non ricevono il pagamento uguale ai uomini, e tutte queste cose sono ancora, non sono, la lotta per le donne non ha finito ancora. Come anche in Italia, la situazione anche per le donne in Italia è molto uguale che anche in Svizzera. Sì. È molto difficile per donne italiane che lavorano, che hanno i bimbi, di combinare la vita professionale e familiare. Petra, dopo la presentazione a Roma, che tipo di distribuzione avrà il tuo film? Beh, il film è stato venduto in 30 paesi. Sì. Era un grande hit in Svizzera, eravamo il film più... più successivo, no? Di più successo. Sì, con il più successo l'anno scorso. E spero che in Italia la distribuzione riuscirà di anche arrivare nei piccoli cinema, per esempio lì dove abitano tutta la mia famiglia, a Pescara, a Chieti. Spero che gli italiani vanno a guardare il film, perché non è soltanto un film per le donne, è anche un film per gli uomini. Sì. Un film per i giovani, certo. Per ricordarci che cosa significa di abitare in una democrazia, sì. Avere il coraggio civile, tutte queste cose. Sì, sì. Petra, per saperne di più, c'è una pagina Facebook, un sito internet? Sì, c'è il Facebook page che si chiama Contro l'Ordine Divino. Sì. E lì si trova tutti, speriamo che si trovano tutte le informazioni sul film, dove uscirà. Benissimo. Sì. Allora, ricordiamo l'appuntamento alla Casa Internazionale delle Donne a Roma l'8 marzo con il film Contro l'Ordine Divino di Petra Biondina Volpe. Petra, un saluto, un abbraccio e a presto. Sì, grazie mille per l'intervista. Ciao. Okay. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ben ritrovata Elisabetta Pandimiglio. Grazie, buonasera a tutti. Co-regista del documentario Sbagliate, che è in programmazione all'Apollo 11 a Roma l'8 marzo. Allora, Elisabetta, ce lo racconti? Sì, ve lo racconto. Sbagliate è un viaggio, io lo chiamo un viaggio, un lungo viaggio. È un film che si interroga sulla scelta della maternità. Quindi è un film dove una serie di donne si riuniscono tra loro e si interrogano, non madri, cioè solo una madre nel film, e si scambiano delle idee, delle confidenze sulla scelta o non scelta della maternità, quindi sul essere madre o no, per caso o per destino o per scelta. È un film che ha una genesi molto lunga, nasce da un